in primo piano, dove oggi trovate la foto di Massimo Ciancimino un po' ovunque. È il figlio di Vito Ciancimino, ormai lo conosciamo, insomma ogni tanto rilascia dichiarazioni, adesso lo sta facendo in un processo, il processo Mori, e ha accusato direttamente la nascita di Forza Italia, frutto di una trattativa con la mafia. Ciancimino accusa Forza Italia, il governo, un piano per colpirci, questo è il Corriere della Sera, ma l'apertura dei più importanti giornali dedicati, insomma, all'attualità sono unanimi. Ciancimino accusa Forza Italia per Repubblica, Ciancimino accusa Forza Italia per La Stampa, con Alfano è un piano per colpirci. Forza Italia, cosa nostra, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Messaggero, mafia, tempesta su Ciancimino. Questi sono i titoli. Il Manifesto fa un'intera foto di Ciancimino che depone in aula. Poste Italiane. Perché Poste Italiane? Perché Ciancimino ha anche presentato questa lettera che il padre avrebbe scritto direttamente a Silvio Berlusconi. Allora iniziamo da qui. Oggi ci sono talmente tante cose che vorrei segnalarvi dai giornali. Il tempo è quello che è. Vediamo di correre, vediamo di segnalarle il più possibile. Allora appunto Ciancimino ha parlato, i maggiori giornali dedicano le aperture, le pagine più importanti. Berlusconi indignato viene dato dal Corriere della Sera, mentre Repubblica con Francesco Bei rivela di un Berlusconi pronto a sfidare le rivelazioni. Un Berlusconi che più che indignato invece avrebbe detto: bene, avanti così, queste frottole di Ciancimino sono talmente fuori dal mondo che saranno un boomerang. Certo, infastidito al massimo, ma dice la solita storia, guarda caso queste cose vengono fuori sempre prima delle elezioni. Come al solito sono dichiarazioni virgolettate, ma sono i soliti retroscena, quello che avrebbe detto Berlusconi, non sono dichiarazioni ufficiali, ufficialmente non ha detto una singola parola. La difesa del cavaliere, secondo Repubblica, sarebbe questa: è un ciarlatano, è solo giustizia a orologeria. Tra l'altro, chi fa una sponda, in qualche modo sostiene questa tesi all'interno dell'Italia dei Valori, è l'eurodeputato Pino Arlacchi, che è anche una persona che ha una storia molto particolare, amico e collaboratore per anni di Falcone, di Borsellino, poi è stato a capo dell'antidroga dell'ONU a Vienna per tanti anni, ora è appunto eurodeputato dell'Italia dei Valori. Pino Arlacchi dice: una ricostruzione assurda, non credo a Ciancimino, non so cosa abbia in mente. Lo dice alla Stampa in un'intervista. È assurdo pensare che Forza Italia sia una creatura della mafia, così si rafforza la figura di Berlusconi e si accredita l'immagine dei soliti magistrati comunisti e si delegittimano i pentiti. Occorre cautela. Insomma, un Pino Arlacchi molto critico e scettico sulle parole di Massimo Ciancimino. Tra l'altro, le parole di Massimo Ciancimino, c'è Attilio Bolzoni, che è come sempre un attentissimo cronista da anni di vicende di mafia, che su Repubblica a pagina 4 fa un'analisi: la Palermo dei veleni e le domande mai fatte al figlio di Don Vito. Sostanzialmente si chiede a Attilio Bolzoni: perché Ciancimino dice tutto questo soltanto ora? Si chiedono tutti. Perché chiama in causa il Presidente del Consiglio? Perché sono arrivate soltanto ora e così in ritardo le verità di Massimo Ciancimino? La risposta è semplice nella sua banalità: nessuno gli aveva mai chiesto niente prima, mai, mai una volta. Gli avevano anzi assicurato, stando a quello che sostiene il più piccolo dei figli di Don Vito, che nessuno l'avrebbe mai disturbato su queste faccende, né a Palermo né altrove in Italia. E lui ora, a domanda, risponde sempre. Quanto ci sia di vero o di verosimile in quel che dice è un altro discorso. Dunque, Bolzoni dice: un conto sono verificare le dichiarazioni. Il fatto del perché ne dica oggi e ne risponda oggi è perché, scrive Bolzoni, nessuno gli ha mai chiesto niente, anzi, secondo Massimo Ciancimino, gli sarebbe stata garantita, come dire, una sorta di impunità, cioè di queste cose non ti chiederemo mai nulla. Ora invece non è così, e questo a partire da una famosa intervista di Panorama. Panorama nel dicembre del 2007 gli chiese dei suoi incontri con Bernardo Provenzano, le trattative coi carabinieri, la vicenda del papello di Totò Riina. Probabilmente è la prima volta che lì Massimo Ciancimino ammise in questa intervista. Fino allora non ne aveva mai parlato, forse non ne avrebbe parlato mai, scrive Bolzoni, e allora i procuratori di Palermo, Ingroia e Di Matteo l'hanno invitato a spiegare. Da quel momento, dal 2008, non si è più fermato. Il perché, insomma, poi si vedrà anche sull'eventuale attendibilità. Questa è la vicenda Ciancimino. Dicevamo Berlusconi, legato anche al nostro sondaggio, oggi trovate alcune cose interessanti sui giornali. Il Corriere della Sera, i periti della Procura, prognosi del Premier tra 20 e 40 giorni. Si riferiscono al lancio della statuetta del Duomo di Tartaglia. Sapete che Berlusconi, al quale era stato diagnosticato 90 giorni di prognosi dal suo medico, poi è stato visitato da periti della procura, la prognosi è stata abbassata tra 20 e 40 giorni, lesioni semplici. Una stima ampiamente al di sotto della prognosi di guarigione fissata in 90 giorni dallo staff medico del San Raffaele, al momento in cui il cavaliere fu dimesso, scrive il Corriere della Sera. Taglio del labbro di 1,5 cm, la rottura di 3 denti, la frattura alla mascella della spina nasale anteriore. Questa è quello che c'è scritto nel quello che anticipa il Corriere, quello che c'è scritto nella relazione data alla procura. Inoltre, la miniatura ha provocato al cavaliere un'ipostesia, cioè un deficit di flessibilità al nervo infraorbitario, quello che passa tra occhio e denti. Tutti segni tangibili al di là della tesi di Gioacchino Genchi. Eccola lì l'idea del complotto, della pantomima, ma poi ci spiegherà tutto Gioacchino Genchi alle 8:30 e anche, ripeto, il tema del nostro sondaggio. Complotti? Ci sono complotti in Italia? È singolare che giornali più vicini al governo, come Libero e Il Giornale, spendano una pagina intera, entrambi, per il pranzo oggi di Berlusconi con i 5 figli. Sapete che è molto atteso. Buon appetito Berluschini, titola Libero, perché c'è la foto di Berlusconi con tutti i suoi 5 figli. Ad Arcore va in scena il pranzo per sistemare i 5 eredi. Eleonora pronta per Endemol, Mediolanum e Milan a Luigi. Allora, ripeto, Eleonora prenderebbe Endemol, Mediolanum e il Milan andrebbero a Luigi, vale a dire il più piccolo. La trattativa tra Marina e Barbara per la Mondadori. Queste sono le anticipazioni. Ovviamente c'è questo pranzo. Il Giornale invece, con Marcello Foa, lo tratta in modo diverso. Dice: la cena tra Berlusconi e i figli scatena il gossip, ci sono indiscrezioni ovviamente di quello che sarebbe il motivo di questo pranzo oggi di Berlusconi, che raduna i 5 figli. Per tutta la giornata, scrive Marcello Foa, ovviamente si sono rincorse le voci. Secondo il sito style.com, il sito di Vanity Fair, Eleonora Berlusconi verrebbe nominata appunto vicepresidente di Endemol, mentre a Luigi Berlusconi toccherebbe la vicepresidenza del gruppo Mediolanum. Pier Silvio resterebbe invece vicepresidente del gruppo Mediaset, oltre che presidente e amministratore delegato di RTI e Med2. Insomma, c'è grande attesa. Sarà un pranzo normale, sarà un pranzo in cui si discuterà anche per via del divorzio imminente, della separazione imminente, come verrà redistribuito l'impero. Staremo a vedere. Da Berlusconi ovviamente, anche in questo caso, sottolinea il Giornale, ieri si è guardato bene dal fare qualsiasi tipo di dichiarazione al riguardo. L'altro uomo che sapete è nel centro delle polemiche, davvero nell'occhio del ciclone, soprattutto dopo che ha fatto quella che è definita la svolta di Salerno, è Antonio Di Pietro, di cui tra l'altro parlerà oggi Oscar Giannino alle 9, la svolta proprio di Di Pietro. Beh, la svolta innanzitutto perché Di Pietro ha candidato, o meglio ha appoggiato in campagna, la candidatura di De Luca, vale a dire di una persona che è sotto indagine processuale. E questo per il popolo anche di Pietro, per molti che votano Italia dei Valori, è una cosa che non doveva fare. Travaglio, Marco Travaglio, vale a dire colui che scrive è anche insomma uno delle anime del Fatto Quotidiano. Travaglio oggi torna dopo averlo criticato sul Fatto in un'intervista alla Stampa, è molto duro, anche Tonino ha fallito. Intervista a Michele Brambilla, dice: Di Pietro non aveva mai fatto errori politici, mai nella scelta delle strategie politiche. In campagna invece tutta la sua gestione è stata disastrosa. Quando è venuto a parlare De Luca, De Luca è il sindaco di Salerno, il candidato del PD in campagna, sotto indagine, un paio di inchieste, dunque indagato, e questo è stato l'errore per Travaglio. L'ovazione data a De Luca è stata l'apoteosi della catastrofe. Ha creato un precedente, Di Pietro, che lo inchioda per il futuro. Non potrà mai più dire a nessuno: avete candidato un inquisito. Questa storia sarà il suo tallone d'Achille per sempre. Intanto De Luca che fa? De Luca parla al Riformista, fa un'intervista, dice: se io perdo la campagna, cioè andrà al centrodestra, vale a dire ai clan della Camorra. Dunque De Luca ribalta insomma la questione, altro che io imputato. Io ho solo detto la verità, per i processi che sto subendo dovrei avere una medaglia d'oro al valor civile. Sono imputato di truffa per avere sollecitato la cassa integrazione dei 200 operai, una telefonata che rivendico 1, 10, 100, 1000 volte. E poi ancora, vada comunque sul sito del Comune di Salerno, dice a Fabrizio D'Esposito che lo intervista, legga tutti gli atti giudiziari perché io sono trasparente, vada a leggere le carte. Insomma, un De Luca che ribatte e alle critiche di De Magistris, che è l'anima, diciamo, che non voleva la candidatura di l'appoggio alla candidatura di De Luca, dice: De Magistris sbaglia, ripeto così, sbaglia, punto. Insomma, questo è il tema interessante di quello che sta succedendo all'interno dell'Italia dei Valori, con il giornale che insiste negli attacchi, lo sta facendo da vari giorni, oggi insiste, e Di Pietro disse al giudice: quest'uomo non lo conosco, è un nuovo attacco sulle cosiddette bugie di Tonino. Vale a dire, c'è una foto in prima pagina di Di Pietro con Pietro Rocchini, che è il leader della lista Mani Pulite. Una foto sicuramente di due persone che anche per l'atteggiamento molto amichevole, molto, molto sorridono, in una posa anche un po' curiosa, si dà il caso che leggendo da questa foto pare che siano due persone che se non altro si conoscono e che hanno anche una certa, insomma, intimità a scherzare, ecco. Ebbene, Di Pietro, poi interrogato, c'è anche tutto il verbale pubblicato da Il Giornale, così mentì in aula: non conosco il presidente di Mani Pulite. C'è un'intervista anche a questo Rocchini, che dice: Di Pietro sì, era mio amico, e poi dopo ha avuto un voltafaccia che sconvolse tutti, ma lui non ci volle dare spiegazioni. Insomma, le bugie di Tonino, che oggi fa anche un'intervista al Fatto, curioso anche questa cosa, perché Travaglio del Fatto lo attacca con un'intervista alla Stampa, ma lui dà un'intervista invece a Luca Terese sul Fatto di Pietro, che rivendica insomma tutta quella che è la svolta, ma della svolta di Pietro ne parlerà appunto Oscar Giannino alle 9:09. Il Papa: puniremo i preti pedofili. Lo leggo dal Sole 24 Ore a pagina 18, ma lo trovate un po' ovunque sui giornali, questa svolta di Benedetto XVI, che sta mettendo a punto tra l'altro una lettera rivolta alle diocesi, soprattutto irlandesi, dove sono stati scoperti dal rapporto Murphy che prova insomma migliaia di abusi consumati in diversi decenni, una vicenda molto dolorosa che sta colpendo la Chiesa. Nella Chiesa abusi contro minori, ne scrive Carlo Marroni, che abbiamo sentito anche in GR24, insomma della svolta proprio della volontà di Papa Benedetto XVI di colpire molto duramente comportamenti che saranno, ha detto, condannati all'interno della Chiesa. Questo tema lo trovate molto sviluppato, così come invece trovate solo sul Corriere della Sera viene rilanciata la possibilità di ripristinare il pedaggio su alcune superstrade italiane, quelle che sono a carattere assimilabile alle autostrade. Superstrade a pedaggio per pagare le grandi opere. Lo ha detto il vice ministro Castelli, è una proposta, insomma, per esempio la E45 Orte-Ravenna, un raccordo anulare l'accesso allo scalo di Fiumicino, la superstrada Bari-Lecce, la Salerno-Reggio Calabria dal 2013, l'autostrada Catania-Siracusa. Magari state percorrendo una di queste strade, sappiate che insomma la proposta è quella di poter mettere il pedaggio, perché non sono vere e proprie autostrade, ma sono superstrade che assimilabili ad autostrade, per le quali, ha detto Castelli, si potrebbe studiare il pedaggio, una cosa non nuova che ogni tanto ritorna, anche per dare più soldi, finanziamenti all'ANAS. Tra l'altro, sulla vicenda delle strade c'è stato un battibecco a distanza tra il presidente di Confindustria Marcegaglia e il ministro ai trasporti Matteoli, perché lo leggiamo sul Sole 24 Ore a pagina 5, un bond per le grandi opere. Ieri Marcegaglia ha sostanzialmente dato uno sprone al governo a insistere con la politica delle grandi opere e di investire di più nelle infrastrutture per la mobilità, insomma i grandi corridoi viabilistici, ferroviari, per agganciare l'Italia ai mercati del nord e del centro Europa. È arrivata insomma a secca e a stretto giro di posta la replica del ministro Matteoli, che ieri era a Genova aprire il cantiere del Terzo Valico. Si può fare di più e meglio, ci proveremo, ma ho la sensazione che la presidente Marcegaglia abbia visto un altro film. Questo governo ha avviato con successo la semplificazione delle procedure amministrative sulle opere pubbliche. Insomma, questo il tema delle infrastrutture per garantire più competitività ai mercati, d'altronde è un tema sempre molto molto interessante. Trovate molto sui giornali, oddio, per la verità poteva essere di più, ma si sa, questo paese dimentica in fretta. Oggi è un anno dalla morte di Eluana Englaro. Voglio dire, ricordate, tutti un anno fa non si parlava d'altro. Solo Repubblica e Avvenire vi dedicano risalto. Repubblica lo fa pubblicando una lettera di Beppino Englaro. Caro direttore, un anno è passato dalla fine di un incubo. Era un incubo nostro, degli Englaro, perché avevamo una componente della famiglia in balia delle mani altrui, contro la sua volontà. Incontro sempre più persone che vogliono stringermi la mano, salutarmi, dirmi grazie. Penso che questa gente abbia capito il senso dei diritti individuali di libertà delle persone. Sono convinto che molti si siano resi conto del prezzo che abbiamo pagato. Mi sento dire spesso mai più Eluane, cioè mai più contro la sacralità della vita e la sua indisponibilità, ma secondo me è l'esatto contrario, e cioè nessuno deve avere il potere di disporre di un'altra vita come è avvenuto per Eluana. Il miglior modo di tutelare la vita in tutte le situazioni è affidarne le decisioni a chi la vive, sia a chi è in condizione di intendere e volere, sia a chi non è più capace ma ha spiegato che cosa avrebbe voluto per sé. Che cosa mi diceva Eluana? La morte l'accetto, fa parte della vita, ma che altri mi possano ridurre a una condizione di non morte e di non vita, no, questo non l'accetto. E poi più avanti scrive Beppino Englaro, c'è chi la pensa in maniera diversa, lo so bene, ma so bene che mentre Luana moriva, il Parlamento aveva organizzato una corsa per approvare una norma che annullasse quello che aveva stabilito la Corte di Cassazione. C'era un giudicato e c'erano dei politici che volevano sovvertirlo. C'era una nostra lunga e dolorosa battaglia e c'era chi voleva farne carta straccia. Adesso io vorrei dire, è passato un anno e la legge non c'è. Come mai? A che punto è tutta quella forza d'urto lanciata mentre una ragazza moriva? Dov'è finita? Questo insomma è Beppino Englaro, con tra l'altro il medico De Monte, che è colui che ha assistito le ultime ore di vita di Eluana Englaro, che sempre Repubblica dice: aiutai Eluana a morire, da allora la mia vita non è più la stessa. La posizione ben diversa, ma comunque ampio risalto, è data da Avvenire. Un anno dopo per la vita. Questo è il titolo di apertura di prima pagina, e ci sono ben quattro pagine all'interno, con anche il direttore Marco Tarquinio che fa un editoriale. È semplice stare dalla parte giusta. Ovviamente la posizione è ben diversa rispetto a quella di Beppino Englaro. Il 9 febbraio 2009 l'addio ad Eluana, forse entro l'estate il via libera alla legge. Che cosa fa? Avvenire intervista le suore che per 17 anni si sono occupate di Eluana Englaro dopo l'incidente. Così abbiamo accompagnato Eluana, come si può non amare chi è inerme come un neonato? È suora Albina che parla e che dice che fosse viva era un'evidenza, non solo perché respirava naturalmente senza alcuna macchina. e poi quando la si chiamava per nome reagiva con una quasi impercettibile agitazione che però noi coglievamo e la sua pelle sembrava assaporare le carezze. Una donna fisicamente sana, non magra, mai ammalata, con una pelle rosea. Insomma, questo è il tema con il quale voglio concludere, che trovate sviluppato sui giornali, la vicenda di Eluana Englaro. La potete leggere su Repubblica, la potete leggere su Avvenire, con approcci ovviamente diversi.